La più splendida città se New York. Nel tramonto tutto d'occhio t'ho conosciuta, e questa notte nel mio cuore è nato d'amore. Come una musica di felicità dolce in me resterà. La più magica città se New York. Una bianca vela va sul mare di pietra, e mai lottare non potrà. Stordita d'amore, tra mille luci ardenti ritroverà l'altro cuor che verrà. A New York, a New York, anche i sogni sembrano realtà. Mia New York, mia New York, nel mio cuore sei per sempre, mai ti lascerò. La più splendida città sei New York. Nel tramonto tutto d'occhio t'ho conosciuta, e questa notte nel mio cuore è nato l'amore. Ed il mio amore sei New York. Per sempre mai ti lascerò. La più splendida città sei New York. Nel tramonto tutto d'odio t'ho conosciuta, e questa notte nel mio cuore è nato l'amore. Ed il mio amore sei New York.